Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Presidente del Consiglio, il caso Noemi, ho giurato di non aver avuto rapporti piccanti. Franceschini, la battaglia sui valori è giusta e continueremo a farla. E ancora critiche dei giornali stranieri a Berlusconi, il vero peccato, dice il Financial Times, è la sua cattiva gestione dell'economia. Confesercenti, intanto, a proposito di economia, lancia l'allarme, nel 2008 chiuse 15.000 imprese strozzate tra debiti e usura. Ci vogliono meno tasse e un bonus fiscale per le aziende che non licenziano. Appello di Napolitano, la crisi non cancelli l'accoglienza, i migranti sono vittime di reti criminali. Restano in due nella corsa per acquisire Opel. Il governo tedesco ha dato 24 ore di tempo a Fiat e Magna per presentare le nuove offerte. Non è un processo politico, così la giunta militare della Birmania sul procedimento contro la leader dell'opposizione San Suu Kyi. Ricette normali e non più speciali per comprare morfina in farmacia svolta in Italia sulla terapia del dolore. Sono sicuro che lavorerà bene. Lei ha citato anche un numero che ci fa male. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Quella che state sentendo in sottofondo è la voce del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che sta ancora parlando all'assemblea di Confesercenti. Del resto oggi è una giornata ricca di notizie politiche, non solo dal punto di vista dei contenuti politici ed economici veri e propri, ma anche per quanto riguarda la famosa polemica del caso Noemi. Sì, c'è appunto il Presidente del Consiglio che torna ad intervenire su questo, Dario Franceschini che torna sulle parole di ieri mentre presenta le candidature femminili alle prossime elezioni europee. Ma iniziamo dall'evento che adesso è in corso, ossia l'assemblea di Confesercenti. Ci colleghiamo dunque con l'assemblea dove c'è la nostra Chiara Di Michele. Chiara. Sì, buongiorno. L'intervento del Presidente del Consiglio, che è ancora in corso, si è aperto con l'Abruzzo, dove si recherà domani, per poi rivendicare l'azione del Governo nella gestione della vicenda sui rifiuti, dove lo Stato, ha detto Berlusconi, è tornato a fare lo Stato. Un altro tema centrale poi, l'energia. Il Premier ha sottolineato, paghiamo il 30% in più rispetto alla media europea e il 50% dei costi in più rispetto alla Francia, e poi avverte. Abbiamo ritenuto che in un paese che sia una democrazia non possa una comunità minore organizzata opporsi alla legalità e occupare un'autostrada, una ferrovia, uno scalo aereo, un'aerostazione, o impedire, come si è fatto a Napoli, che si usassero delle discariche o addirittura che si costruissero gli inceneritori, i termovalorizzatori. Abbiamo usato l'autorità dello Stato e lo faremo in tutte le situazioni. Chiara, queste dunque le parole di Silvio Berlusconi, ma naturalmente all'Assemblea ha parlato il segretario di Confesercenti Venturi. Che cosa ha detto? Innanzitutto c'è da dire che di Venturi è stato molto apprezzato ed elogiato dal Presidente del Consiglio, perché è ricco di suggerimenti utili. Poi fondamentalmente ha scattato una fotografia Italia sulla crisi, ha toccato molti argomenti, in particolare ha sottolineato che la crisi penalizza le piccole imprese che sono più esposte all'azione dell'usura. Non è un caso se lo scorso anno ben 15.000 imprese hanno chiuso i battenti perché sovraindebitate e spesso strozzate. I primi dati del 2009 confermano questa tendenza negativa, anzi la mannaia dell'usura sembra allargarsi alle imprese di media dimensione. Fallimenti e protesti segnalano l'urgenza di contrastare la fragilità finanziaria delle piccole e medie imprese. Dobbiamo però evitare di rispondere alle loro difficoltà dandogli l'ombrello quando splende il sole e togliendoglielo quando comincia a piovere. E tra l'altro Venturi ha aggiunto che ci vogliono meno tasse e un bonus fiscale per le aziende che non licenziano, un bonus fiscale ancora più alto per le aziende che assumono. E con questo salutiamo la nostra Chiara Di Michele, anche perché il collegamento non era proprio spettacolare. Dei migliori. Noi torniamo però sulle parole del Presidente del Consiglio, perché prima di andare all'Assemblea di Confesercenti a Palazzo Chigi, davanti ad alcune telecamere, ha fatto delle dichiarazioni sul cosiddetto ormai caso Noemi. Il Premier ha detto: io non ho mai più detto niente di niente, ho risposto da subito alla sola domanda se avessi mai avuto rapporti piccanti e ho risposto assolutamente no, ci ho messo anche il carico del giuramento sui miei figli. Queste dunque le parole di Berlusconi. E sul caso Noemi ci sono ancora polemiche sulle parole di Dario Franceschini, che ieri aveva detto: fareste educare i vostri figli a Silvio Berlusconi. Ieri e oggi anche sui quotidiani le reazioni degli stessi figli di Berlusconi, che sono state molto dure nei confronti del presidente, del segretario del Partito Democratico. E oggi il segretario appunto del Partito Democratico è tornato sull'argomento in occasione della presentazione delle candidature alle prossime elezioni europee. Paola Cavadi. Sì, mi dispiace davvero se i figli di Berlusconi si sono sentiti offesi dalle mie parole, ma non mi riferivo a loro. Così il segretario del PD Franceschini prova a stemperare le polemiche dopo le prese di posizione di ieri dei figli di Berlusconi. È lontana da me mille miglia l'idea di coinvolgere i figli del Premier nello scontro politico, ha aggiunto Franceschini, che poi precisa il senso delle sue dichiarazioni. Io ho parlato dei nostri di figli, ha detto, dei valori che un uomo pubblico trasmette con i suoi comportamenti alle giovani generazioni. Non voglio, ha continuato, che ce lo dicano dall'estero. A prenderne coscienza dobbiamo essere noi italiani. Così Franceschini è tornato sulla polemica del giorno, senza peli sulla lingua, e per farlo ha scelto la giornata di presentazione delle candidature femminili del PD alle europee. Ultimamente si è parlato troppo di estetica, ha detto la responsabile per le pari opportunità del PD Vittoria Franco. Per questo noi abbiamo deciso di puntare sulla qualità delle nostre candidate, e il PD in effetti presenta 27 donne su 72 candidati, cioè il 40% dell'intera lista. Capolista nella circoscrizione dell'Italia meridionale sarà Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso dalla mafia, ma poi ancora europarlamentari uscenti, libere professioniste, amministratrici, imprenditrici, giornaliste, tutte donne, dicono dal partito, che vantano una carriera professionale e politica di tutto rispetto. Ma una volta candidate bisogna che le donne del PD vengano votate, lo ha detto il segretario stesso. A questo proposito proprio Franceschini ha lanciato un appello al suo partito e agli elettori: almeno una delle tre preferenze che si possono esprimere in Europa vada a una donna. Da Roma è tutto, a voi studio. Deve diventare come la Francia, come la Spagna e altri paesi, per cui con questa magistratura, che in questi passati 15 anni, in tutte le scadenze elettorali, tutti i momenti del lavoro da Presidente del Consiglio. È sempre Silvio Berlusconi in diretta dall'Assemblea di Confesercenti. Il Presidente del Consiglio ha la possibilità di difendersi, perché o uno si prepara le udienze, o uno fa le riunioni con gli avvocati, oppure governa il Paese. Se non c'è una sospensione degli procedimenti, ne avevo soltanto due ancora, no, che riguardavano sempre il mio precedente passato di imprenditore. Tra parentesi, sono sempre stato assolto in tutti i procedimenti con formula piena. Questo è ancora dunque il Presidente del Consiglio Berlusconi dell'Assemblea di Confesercenti, sta parlando della magistratura, tra l'altro ha detto che ci sono grumi eversivi nella magistratura. Ma veniamo ai giornali stranieri su Berlusconi. Sì, perché ieri c'è stato l'attacco di Financial Times e Independent, che hanno definito il Premier un pericolo. Oggi ancora forti critiche dal francese Le Figaro, ma di nuovo dal Financial Times. Giulia Crivelli, allora che cosa scrivono questi giornali? Le Figaro pubblica una foto molto grande di Berlusconi con la faccia, insomma, contrita, preoccupata, e il titolo è: Berlusconi indebolito dalla vita privata, dalle vicende della vita privata. Si cerca anche qui faticosamente, perché noi l'abbiamo seguita passo dopo passo, i giornali stranieri hanno cercato, insomma, di tenersi aggiornati con più, insomma, in modo meno puntuale, però adesso devono riassumere questa complicata vicenda e commentarla. Secondo il corrispondente da Roma, perché sono sempre comunque giustamente i corrispondenti dall'Italia che raccontano queste vicende, è proprio quasi un'arte di complicarsi la vita quella del Presidente del Consiglio, perché prima che scoppiasse questo scandalo circa due settimane fa i sondaggi lo davano al 73% di popolarità. Beh, quindi naturalmente l'idea che poi adesso sappiamo che in questo momento sondaggi non se ne possono fare o comunque non si possono divulgare, però è presumibile che qualche punto l'abbia perso, quindi da una situazione di assoluta possibilità di vincere le elezioni adesso è un pochino più in difficoltà. Financial Times naturalmente torna perché il il punto che voleva fare Financial Times non era tanto sullo scandalo in sé, ma su questo atteggiamento di non raccontare interamente la verità, ed è qui che è questa qui la pericolosità di Berlusconi, non tanto appunto nella vicenda. Ieri poi diceva non paragonate Berlusconi a Mussolini, perché Mussolini aveva squadre di camicie nere, Berlusconi ha delle squadre di starlet, quindi la cosa è ben diversa, quindi non è quello il punto. E quindi è un punto sostanzialmente economico quello del Financial Times. Certo, perché i problemi dell'Italia, tra l'altro sottolinea anche Financial Times, tutto questo clamore intorno a questa vicenda ha allontanato in realtà anche la campagna elettorale, le discussioni della campagna elettorale dai problemi del paese. Dai problemi Italia. Veri del paese. Esatto. Grazie Giulia, con te ci risentiremo più tardi per sentire cosa scrivono i giornali stranieri anche su altri argomenti. Sì, tra l'altro vi segnaliamo, a proposito di polemiche, una frase del ministro Brunetta piuttosto forte, che di polemiche non mancherà di suscitarne. In un'intervista a Klaus Condì, cioè il programma su YouTube di Klaus Davi, dice: bisogna mandare i poliziotti per le strade, ma non è facile farlo. Non si può mandare in strada il poliziotto panzone che non ha fatto altro che il passacarte, perché in strada se lo mangiano. Vedremo se ci saranno reazioni anche a questo. Ora invece voltiamo decisamente pagina, ciclismo, siamo al Giro d'Italia. Oggi non è una tappa però decisiva, almeno così sembra. È così, Dario Ceccarelli? Sì, ciao Alessandra, ciao Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, non dovrebbe essere una tappa decisiva, si va a Benevento, si va per uno sprint per velocisti, e quindi non dovrebbe cambiare sostanzialmente la classifica, che vede, come ormai sanno tutti, il russo Menchov davanti a Danilo Di Luca per 26 secondi. E qui ce la si gioca proprio sugli spiccioli, perché domani ci sarà la tappa del Vesuvio, una salita piuttosto difficile con una pendenza fino al 10%, e ci sarà quasi l'ultimo duello tra i due duellanti del Giro, cioè Di Luca e Menchov. Al momento Menchov sembra avere qualche chance in più, però sembra che sia stato un po' toccato sia dalla tappa di Blockhouse, dove all'ultimo ha accusato qualche cedimento, e poi da alcune voci che sono venute dall'Austria su un suo coinvolgimento nell'affare Human Plasma, che è un laboratorio di Vienna dove c'è un traffico di trasfusioni di sangue che toccava più sport. E questo ovviamente non c'è una sua incriminazione, non è stato convocato semplicemente come testimone, però questo ha messo un'ombra su di lui e quindi anche sulle prospettive del Giro, che può condizionare lo sviluppo della corsa. È tutto. Le 13:17 nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato dell'assemblea di Confesercenti, dove c'è stato un allarme da parte del presidente di Confesercenti, Marco Venturi, sul fronte dell'usura, ma c'è stato anche l'intervento del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che tra l'altro in queste ore è ancora in corso. E poi si è tornato a parlare del caso Noemi, perché lo stesso Berlusconi ha detto di non aver mai avuto rapporti piccanti, e c'è stata una prima replica di Dario Franceschini ai figli di Berlusconi che lo avevano difeso, e poi ancora attacchi al Presidente del Consiglio da parte del Financial Times e delle Figaro. Adesso ci occupiamo di immigrazione. Lo facciamo innanzitutto con le parole del Presidente della Repubblica Napolitano. Ci colleghiamo in diretta con Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, è un nuovo scontro tra Quirinale e Palazzo Chigi, questa volta è sull'immigrazione e sulla politica dei respingimenti. Gli immigrati sono vittime e noi abbiamo il dovere dell'accoglienza. Questo in sostanza è il parere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che questa mattina ha celebrato la giornata dell'Africa al Quirinale con il Ministro degli Esteri Franco Frattini. Il problema dei fenomeni migratori, spiega il Capo dello Stato, ha origine da emergenze umanitarie che intaccano la dignità delle popolazioni più svantaggiate, costringendole a diventare vittime di reti criminali che approfittano della loro miseria e si arrischiscono alle loro spalle. Per Napolitano la crisi economica non deve mettere in discussione i valori di solidarietà ed accoglienza nel rispetto della legge, cui si ispirano le nostre democrazie. Abbiamo il dovere di avviare anche il rapporto a una politica europea dei flussi migratori e di accoglienza, un partenariato con i paesi africani che permetta di mettere in moto, consolidare lo sviluppo e aggredire le cause profonde della povertà. Si corre il rischio tangibile che le risorse dell'Africa servano alla globalizzazione economica e finanziaria, ma che le sue popolazioni non traggano sufficiente beneficio. Per Frattini le potenzialità dell'Africa vanno sfruttate appieno, e per questo si lavorerà al G8 all'Aquila. Al Capo dello Stato replica subito il Premier Silvio Berlusconi: i respingimenti andavano fatti e non c'è nulla contro l'umanità. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Sulla politica dei respingimenti, tra l'altro, è intervenuto oggi a 24 mattino il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano. Sentiamolo. Questa politica evita dei mostri in mezzo al mare. Chi finora ha evocato la necessità di riconoscere in modo ampio lo status di rifugiati e ha attaccato il governo nazionale dicendo che viola dei diritti essenziali, forse ha trascurato che il più essenziale dei diritti è quello alla vita, e che se si finisce in fondo al mare certamente non si può parlare poi di altro. Il nostro obiettivo è molto chiaro, e cioè quello di, evitando queste tragedie, puntare ad un accordo che coinvolga l'Unione Europea nel suo insieme, le organizzazioni internazionali, a cominciare dall'Alto Commissariato per i Profughi e Rifugiati, e la Libia, che ha mostrato estrema disponibilità negli ultimi mesi, e di far sì che il vaglio delle richieste di asilo avvenga direttamente sul suolo libico, con un'assunzione di oneri da parte dell'intera Unione Europea e con la ripartizione di coloro che saranno riconosciuti rifugiati o che avranno il riconoscimento di una protezione umanitaria, quindi una clausola ancora più larga, tra tutti i 27 Stati dell'Unione. L'Italia finora ha fatto la sua parte in maniera più ampia e dal mio punto di vista anche migliore rispetto a ogni altro paese europeo. Un dossier del Ministero dell'Economia mette sotto accusa l'ospedale Niguarda di Milano, che è uno dei più importanti del nord Italia. Ci sarebbero appalti e consulenze d'oro. Appalti irregolari, nomine illegittime, consulenze d'oro. In un dossier di 416 pagine, di cui dà notizia il Corriere della Sera, il Ministero dell'Economia mette sotto accusa 10 anni di gestione dell'ospedale Niguarda di Milano. In particolare il progetto per la nascita del nuovo centro ospedaliero da oltre 1 miliardo di euro, che vede coinvolte due società a capitale pubblico-privato, la NEC S.p.A. considerata vicino a CL e la Progenie S.p.A. legata alle COP rosse. L'appalto per la riqualificazione, si legge nel rapporto, ha prodotto un grave danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, oltre un centinaio le violazioni contestate in 10 mesi di controlli della Guardia di Finanza. Dagli appalti per la ristorazione e i servizi bancari alle consulenze da 100.000 euro affidate a manager esterni privi dei requisiti professionali. Contestata anche l'ingerenza della Regione Lombardia, che tramite due società, Finlombarda e Infrastrutture Lombarde, ha gestito parte del progetto. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Oh, tra l'altro abbiamo provato a contattare tanto l'ospedale Niguarda di Milano quanto Infrastrutture Lombarde, la società che citava la nostra Maria Luisa Pezzali, nel suo servizio, ma al momento non è stato ancora possibile avere una replica. Per quanto riguarda la Regione Lombardia, al momento si registra solo una dichiarazione dell'assessore regionale alla sanità Luciano Bresciani. Dice: la situazione mi preoccupa, ma aspetto le controdeduzioni che il Niguarda sta preparando. Continuiamo a parlare di sanità, ma per tutt'altro argomento, perché c'è una svolta nella terapia del dolore. D'ora in poi basterà una ricetta comune, insomma quella del medico di base, per poter acquistare in farmacia la morfina, secondo quanto stabilito da un decreto ministeriale firmato dal viceministro alla salute Fazio. Fino ad ora invece era richiesta una ricetta speciale a triplo ricalco, che spesso i medici avevano difficoltà a procurarsi. Edoardo Arcuri, direttore della terapia intensiva e terapia del dolore all'Istituto Nazionale dei Tumori di Roma, è intervenuto a Essere Benessere. È già attuata in parte per l'ossicodone, diversi preparati farmaceutici, che è un derivato della morfina, anzi potenzialmente un farmaco anche più potente della morfina, e solo per i dosaggi più bassi, e lì è una mossa iniziale per una progressiva progressiva liberazione da vincoli burocratici della prescrizione degli oppioidi. È un passo importante, perché indica una direzione, e attualmente, e quindi gran parte dei farmaci oppioidi a piccoli dosaggi possono essere prescritti con una ricetta, una normale ricetta mutualistica. Quindi questo da quando? L'ossicodone è già in vigore questa disposizione. Naturalmente quello che è stato annunciato ieri non riguarda solo la prescrizione degli oppioidi, ma riguarda tutta una serie di misure che rendono più facile e più accessibile ai pazienti e ai loro familiari la terapia del dolore. Si apre domani il Festival dell'Economia a Trento. Radio 24 sarà presente con i suoi studi in Piazzetta Pasi e da là andranno in onda molte trasmissioni e speciali sabato e domenica. Intanto si può fare un bilancio su come in quest'anno di crisi sono andati i libri che parlano di economia. La crisi c'è e si vede, ma almeno in libreria cresce la voglia di capirci qualcosa di più. E i libri degli economisti, anche di quelli ospiti al Festival dell'Economia di Trento, che apre domani, tra l'altro con una lezione del Nobel George Akerlof, i libri degli economisti, si diceva, funzionano. Una tendenza già notata alla Fiera del Libro di Torino, dove i titoli economici erano in bella evidenza anche negli stand di editori generalisti. Non siamo ancora ai livelli dei paesi anglosassoni. In America e Inghilterra il racconto della grande crisi ha prodotto titoli molto fortunati che sono riusciti a sfondare le decine di migliaia di copie vendute. In Italia gli economisti iniziano a pensare di poter scrivere anche per un pubblico di non soli addetti ai lavori. E i libri di Sartori, Bauman, Gaggi viaggiano sulle 30-40.000 copie, o anche un Nobel come Krugman arriva facilmente alle 10.000, cosa impensabile fino a qualche anno fa. Anche per questo a Trento si pensa a un premio al miglior libro di economia, divulgazione e ricerca, magari già dall'edizione 2010. Stefano Salis, CR24, Il Sole 24 Ore. È il talent show più amato degli Stati Uniti, ma uno scandalo sulle votazioni ha scioccato milioni di telespettatori e minaccia il futuro della trasmissione. Che lo show fosse talmente popolare da rasentare lo psicodramma collettivo lo si sapeva. American Idol è più di Amici, più di X Factor, più di entrambi messi insieme. L'ottava stagione è stata seguita in media da quasi 29 milioni di telespettatori. E ce ne sono stati addirittura alcuni che hanno puntato la webcam sul divano di famiglia per mandare in rete le reazioni alla proclamazione del vincitore. The winner is Chris Evans. Shock è stato fortissimo. Eh sì, perché il super favorito Adam Lambert ha perso all'ultimo televoto contro Chris Allen. Il bravo ragazzo dal sorriso smagliante ha battuto il più amato, anche lui carino e sorridente, ma apertamente gay e vestito in modo stravagante. E dopo la delusione, lo scandalo. A scatenare la polemica il New York Times. Grazie a un accordo con i produttori dello show e il canale televisivo Fox, possono votare solo gli abbonati con la compagnia telefonica AT&T. Compagnia che avrebbe influenzato la votazione, distribuendo telefonini gratis abilitati all'invio di SMS multipli alla trasmissione durante feste organizzate da Chris Allen. Questi voti potrebbero non aver influito in maniera decisiva sul risultato, perché gli SMS arrivati sono stati ben 24 milioni, ma l'ombra sulla gara ormai c'è. Il deluso Alan Lambert però si è già preso la rivincita, potrebbe diventare presto la nuova voce dei Queen, come nella migliore delle tradizioni, la fortuna del vincitore morale. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Berlusconi, applausi ma anche fischi all'assemblea di Confesercenti, contestato quando parla di giustizia, reagisce, siete in 4-5, percentualmente irrilevanti. E il premier parla anche del caso Noemi, ho giurato di non aver avuto rapporti piccanti. Franceschini dice, la battaglia sui valori è giusta e continueremo a farla. Intanto la stessa Confesercenti lancia l'allarme, nel 2008 chiuse 15.000 imprese strozzate dai debiti e dall'usura, ci vogliono meno tasse, un bonus fiscale per le aziende che non licenziano. Appello di Napolitano, la crisi non cancelli l'accoglienza, i migranti sono vittime di reti criminali. La corsa è a due per acquisire Opel. Il governo tedesco ha dato 24 ore di tempo a Fiat e Magna per presentare le nuove offerte. Non è un processo politico, così la giunta militare della Birmania sul procedimento contro la leader dell'opposizione San Suu Kyi. Basteranno ricette normali e non più speciali per comprare morfina in farmacia, svolta in Italia sulla terapia del dolore. Il re Abdallah di Giordania si traveste da vecchietto per verificare l'efficienza dei servizi pubblici. Parliamo adesso di Amnesty International, perché è stato presentato il rapporto sulle violazioni dei diritti umani, un rapporto globale che riguarda tutto il mondo e nel quale si parla anche dell'Italia. Andrea Viali ne ha parlato con Christine Weise, presidente di Amnesty Italia. dal punto di vista dei diritti umani in genere possiamo dire che ci sono 80 paesi in cui è violata la libertà di espressione. In 50 paesi si va in carcere per le proprie opinioni. In 80 paesi ci sono torture e maltrattamenti. In 25 paesi ci sono state esecuzioni nell'anno scorso. Ha fatto riferimento alla pena di morte, qual è la situazione? Ci sono alcuni trend che possiamo vedere, per esempio che in Africa la pena di morte viene usata sempre di meno. Per esempio l'anno scorso in tutta l'Africa ci sono state 3 esecuzioni, che è una diminuzione. Addirittura in Africa quindi sono state fatte meno esecuzioni che in Europa. Voi direte in Europa, vi dico che in Europa c'è ancora un paese che ha la pena di morte, che è la Bielorussia. È l'ultimo paese europeo rimasto perché l'anno scorso anche l'Uzbekistan ha abolito la pena di morte. Poi chiaramente abbiamo ancora gli Stati Uniti dove per esempio nel New Mexico il governatore ha abolito la pena di morte nell'anno scorso, però ancora la pena di morte è nel sistema giuridico degli Stati Uniti e viene utilizzata, come abbiamo purtroppo visto anche la settimana scorsa. Voi oggi vi siete anche detti preoccupati per quanto riguarda la crisi economica, la recessione, che dite rischia di innescare anche una crisi dei diritti umani. I diritti umani sono stati messi in secondo piano già ieri a causa della guerra al terrore, oggi sono messi in secondo piano a causa della crisi economica. Stiamo notando che nel mondo c'è molta violenza, c'è discriminazione, c'è razzismo, ci sono persone intrappolate nella povertà, persone alle quali non vengono riconosciuti i loro diritti, persone che non sono neanche coinvolti nei processi decisionali che li toccano direttamente. Quindi stiamo lanciando una grande campagna sulla povertà dove andremo ad affrontare tutte quelle violazioni dei diritti umani che sono alla radice della povertà. Quindi chiediamo un investimento nei diritti umani per combattere le violazioni, per combattere anche la crisi economica, perché tante volte violazioni dei diritti umani sono la causa della povertà. Parliamo anche dell'Italia, quali sono i problemi che avete riscontrato qui nel nostro paese? I problemi dell'Italia li abbiamo visti pochissimi giorni fa direttamente, per esempio per quanto riguarda la politica dell'immigrazione o il respingimento dei rifugiati che arrivano con le barche, con le navi in alto mare. Cioè, questo è espressione di un disprezzo per i diritti umani, perché delle persone che arrivano a cercare aiuto qui, delle persone che sono veramente disperate, che stanno fuggendo da situazioni di grosso pericolo, non possono essere prese e rimandate in Libia, dove di nuovo si troverebbero in una situazione di grande pericolo. Questa è una delle problematiche. Un'altra problematica è la retorica razzista, discriminatoria, alla quale assistiamo anche qui all'interno del paese, nei confronti di minoranze quali i Rom, ma anche nei confronti degli immigrati cosiddetti irregolari. Cioè il pacchetto sicurezza che non fa altro che aumentare l'insicurezza delle persone che già sono in grossissime difficoltà. Ed era Christine Weiss, presidente di Amnesty Italia, intervistata dal nostro Andrea Viali. Dopo l'incontro della scorsa notte a Berlino, che non ha ancora sciolto il nodo del possibile accordo sulla vendita di Opel, l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, è partito questa mattina direttamente dalla Germania con destinazione Detroit per incontri legati alla Chrysler. Sarà il giudice del Tribunale Fallimentare Federale di New York a decidere se dare il via libera alla cessione delle principali attività della casa statunitense all'italiana appunto Fiat. Ma per oggi ci concentriamo sull'altro concorrente all'acquisizione della casa automobilistica tedesca, perché due sono rimasti in ballo dopo l'incontro di questa notte e sono appunto Fiat e Magna. Insomma, Magna, gruppo austro-canadese, produttore di componentistica auto, uno dei punti di forza della sua offerta è l'apertura al mercato russo. E allora vediamo come stanno le cose proprio su questo fronte. Sarà il Cremlino a salvare Opel. I vantaggi che i russi avrebbero dall'ingresso in Germania sono evidenti, al di là del disegno politico di Vladimir Putin di rafforzare l'influenza del paese investendo all'estero. Gaz, la compagnia dell'oligarca Oleg Deripaska, è in difficoltà finanziarie ed è specializzata in veicoli leggeri commerciali. Non è riuscita a rinnovare la sua storica Volga, una berlina snobbata dai consumatori russi che ormai preferiscono nettamente i modelli occidentali. L'acquisto di Opel a fianco di Magna permetterebbe alla compagnia compagnia di Nizhny Novgorod di accedere alla tecnologia tedesca di cui ha un bisogno estremo per rilanciare gli impianti, dopo la fallita alleanza proprio con Fiat negli anni 90. Ma qui si tratta di salvare Opel, non Gas. Per i tedeschi, accettare l'offerta russo-canadese avrebbe il vantaggio di un accesso diretto al mercato russo, attraverso una rete estesa di punti vendita, aggirando i dazi aumentati di recente per frenare l'importazione di auto straniere. Sarebbe una scommessa di lungo termine. In Russia il mercato dell'auto è crollato del 50% e le sue grandi potenzialità si nascondono dietro l'orizzonte della crisi economica. Gas non ha soldi ma debiti, non potrà investire in Opel ma solo aprirle le sue fabbriche. Ai finanziamenti penserà Sberbank, l'istituto di credito statale più diffuso di Russia. All'appoggio politico ci penserà Putin. Antonella Scott, GR24 sulle 24 ore. E di Fiat si parla anche sui quotidiani esteri oggi in edicola. Dunque torniamo, dopo averla sentita nella prima parte del GR Extra Large, su temi di politica italiana dalla nostra Giulia Crivelli. Giulia. Buongiorno. Sì, visto che sappiamo appunto non è detta l'ultima parola su questo, sul fronte Fiat, tra l'altro se vogliamo dalle due parti dell'Atlantico, perché qui in Europa si gioca la partita Opel e negli Stati Uniti si chiude la partita Chrysler, quindi e tra l'altro che ha anche un versante britannico, perché oggi i quotidiani britannici parlano del Vauxhall, che era una sussidiaria di Chrysler, che con l'operazione Chrysler Fiat, dice l'Independent, chiude il suo sogno americano. Il Wall Street Journal titola Merkel cerca di trovare una soluzione, quindi secondo l'interpretazione del Wall Street Journal sarà Angela Merkel a dire veramente l'ultima parola. Sappiamo che sul tavolo ci sono ancora solo due offerte, il Financial Times ieri parteggiava per l'offerta Fiat, il Wall Street Journal è un po' più neutrale e comunque insomma si sembra proprio che questa partita Fiat giocata sulle due sponde dell'Atlantico stia per andare in porto. Di che cosa potrà mai parlare oggi il Paese? Abbiamo questa foto del giocatore, ci sono naturalmente tutti i giocatori e poi il giocatore di Messi è quello che è fotografato a tutta pagina con le braccia aperte, questo grande sorriso di felicità e le braccia naturalmente alzate in senso di vittoria, e il titolo è Il Barça è la miglior squadra del mondo. Ecco, effettivamente la Champions League è una competizione importante, effettivamente l'Europa forse non ha rivali come continente in fatto di calcio, però insomma forse è un titolo un po' esagerato, ma lo capiamo insomma. E che cos'è l'apertura del Paese? È l'apertura di El País, proprio l'apertura del giornale, e tra l'altro è rarissimo che El País metta una foto su tutte e cinque le sue colonne, invece oggi fa proprio questo. Per celebrare il Barcellona lo ricordiamo che ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma ha battuto per 2-0 il Manchester United nella finale di Champions League. Per celebrare il Barcellona e probabilmente anche per vendere qualche copia in più dalla Catalogna, insomma, da quelle parti là. Giulia, in Inghilterra ora. Sì, l'International Herald Tribune, che ha una bella pagina di tecnologia, ha questo tra l'altro un articolo richiamato in prima pagina sui post-it elettronici. I post-it, insomma i fogliettini, i giallini li chiamiamo noi in Italia, quanti ne abbiamo avuti, si sono evoluti in tante forme diverse, tanti colori, ma a forma di fumetto li ho visti. Adesso naturalmente è l'ora del post-it elettronico, ci sono tutti questi programmi che l'International Herald Tribune consiglia uno a uno, fatti per gli iPhone o per i PC o per quei tablet PC piccolini, che permettono di inserire appunto dei post-it elettronici di tanti tipi, addirittura a forma di matita, insomma, ma che fanno un piccolo suono. C'è da scegliere proprio. Sì, il post-it virtuale che però cerca di essere il più reale possibile. Forse continueremo a usare ancora quelli di carta. Sì, che forse in alcuni casi sono più comodi. Sono assolutamente più comodi. Le 13, 43 minuti, 54 secondi, parliamo appunto adesso di Birmania. Sì, andiamo in Birmania, dove è in corso il processo alla leader dell'opposizione San Suu Kyi, accusata di aver violato gli arresti domiciliari. La giunta militare ha fatto sapere attraverso la stampa ufficiale che però non si tratta di un processo politico. È chiusura totale da parte del regime militare birmano sul caso San Suu Kyi, la 63enne leader democratica che sta fronteggiando l'ennesimo processo in questi giorni. Non si tratta di un affare politico né di una questione di diritti umani, è un caso interno e non accettiamo nessuna pressione o interferenza dall'estero, ha detto il ministro degli esteri birmano a Phnom Penh, in Cambogia, dove è in corso un summit tra i paesi del sud-est asiatico e l'Unione Europea. Aung San Suu Kyi, leader della Lega Nazionale per la Democrazia, è premio Nobel per la pace nel 1991, ha trascorso 13 degli ultimi 19 anni in carcere ed è attualmente sotto accusa per violazione degli arresti domiciliari. La mossa in realtà sembra un espediente per tenerla lontana dalle elezioni che dovrebbero tenersi nel 2010. Nonostante le proteste della comunità internazionale, il giudice non ha messo un solo testimone a difesa di Aung San Suu Kyi e il verdetto del processo sembra ormai scontato. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Non Caroline Kennedy, come era stato ipotizzato nelle settimane scorse, ma un teologo cattolico di origine cubana. Sarà questo il nuovo ambasciatore americano presso la Santa Sede. Sentiamo. Un banchiere ed ambasciatore di Londra, un consigliere sulla sicurezza a Parigi, un esperto di biotecnologie per la sede diplomatica del Giappone. La Casa Bianca ha annunciato una dozzina di nomine che tra l'altro riguardano anche il Vaticano. Sarà un teologo cattolico, Miguel Diaz, 45 anni, di origine cubana, il nuovo ambasciatore americano presso la Santa Sede. La prima volta la nomina dovrà essere ratificata dal Senato, che un ispanico andrà a ricoprire questo ruolo in Vaticano, una forma di riconoscimento del peso che i cattolici di origine latina hanno negli Stati Uniti. Una nomina peraltro che arriva in un momento non facile nei rapporti tra il presidente Obama ed una parte dell'elettorato cattolico che nelle scorse settimane lo ha contestato per le sue posizioni su temi come l'aborto e la ricerca sulle cellule staminali. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Alcuni anni fa, precisamente siamo nel 1993, aveva fatto scalpore in Italia l'allora ministro della Sanità Raffaele Costa, che in incognito si era presentato all'ospedale San Giovanni di Roma per verificare di persona i disservizi e le lentezze. Oggi lo stesso blitz, un blitz dello stesso tipo, in gran segreto l'ha fatto qualcuno di molto più in alto, il re di Giordania. Una storia raccontata da Adib Fateh Ali. A nulla è servito il suo perfetto camuffamento degno di un consumato attore. Fingendosi un comune mortale, il re della Giordania è stato smascherato dai suoi sudditi mentre stava facendo un'incognita, un'ispezione in un ufficio pubblico di Amman. La notizia, diffusa su un sito locale, ha fatto il giro del paese in pochi minuti, costringendo gli uffici reali di dare un'imbarazzata conferma. Stando al tam-tam degli SMS, il sovrano, solo e fingendosi un vecchietto sorretto da un bastone, faceva strane domande sulla qualità del servizio in un centro assistenza per anziani alla periferia della capitale. Riconosciuto dai presenti, non ha potuto fare altro che togliersi il keifia, il tipico capricapo arabo, e salutare. Prima di ratificare importanti decreti approvati dal Parlamento, il re Hussein, padre dell'attuale sovrano, usava spesso verificare di persona gli umori dei suoi sudditi. Adib Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo spazio dedicato ai libri. Alessandra, di cosa ci parli e cosa ci proponi oggi? Vi parlo dell'ultimo romanzo di Simonetta Agnello Orbi, si intitola Vento Scomposto, è pubblicato da Feltrinelli ed è la storia di un sospetto. Protagonista è una coppia borghese della City di Londra che va in crisi quando lui viene accusato di aver abusato di una delle figlie. Tra l'altro questo è un periodo in cui nei romanzi compare spesso il tema dell'abuso, mi riferisco per esempio anche al romanzo di Antonio Scurati, Il bambino che sognava la fine del mondo. Ma tornando al libro dell'Agnello Orbi, ecco come lei stessa, che oltre ad essere una scrittrice e un avvocato dei minori, ci parla del suo libro. Questi sospetti diventano subito accuse e spesso nella mente di chi li ascolta diventano certezze. Per cui il rapporto della coppia ovviamente è un rapporto che viene distrutto e deve ristabilirsi se mai si ristabilisce. Nel mio libro in particolare è un rapporto di coppia eccezionale, in quanto la moglie ha sempre avuto una fiducia totale nell'innocenza del marito. È una storia ovviamente simile ad altre storie che io ho avuto. Raramente ho avuto una cliente che rifiuta di considerare l'alternativa, pur sapendo che rifiutando di considerarla rischia di perdere lei stessa i figli, nonostante sia innocente. Infatti all'inizio del libro la moglie è molto solidale col marito, non pensa neanche ad una possibilità del genere. Quando nella mente di una donna, visto che lei appunto ha esperienza di coppie di questo genere, scatta invece il sospetto? Il sospetto nasce quando uno ha degli indizi, ovviamente. L'indizio può essere il bambino che sta male, sta a disagio, che ha paura del papà, o una maestra che dice qualcosa che la genitrice riscontra, eccetera. Quando c'è il sospetto, spesso per una madre deve essere terribile. Io mi metto sempre nei panni dei miei clienti. Cosa avrei pensato se qualcuno mi avesse detto che mio marito aveva abusato dei miei figli? Non lo so, è veramente difficile. Capisco benissimo quelle donne che negano. Non capisco quelle donne che continuano a negare la possibilità che sia avvenuto quando sanno che il rischio di perdere i figli è enorme. E parliamo di famiglia in chiusura, ma in tutt'altro senso. Troppi impegni, soprattutto di lavoro, riducono appunto il tempo trascorso in famiglia. Sentiamo. Soltanto 45 minuti al giorno. E questo è il tempo che una famiglia tipo del XXI secolo trascorre stando tutti insieme. A rivelarlo uno studio inglese della Young Poll, una società di rilevamenti statistici che ha interpellato più di 3.000 adulti e bambini britannici. Soltanto tre quarti d'ora trascorsi per lo più a tavola, a cena o a guardare la televisione o magari facendo entrambe le cose. Risultato, la comunicazione piuttosto scarsa. Altra occasione per stare insieme offerta a genitori e figli dallo shopping nel fine settimana, un tempo comune dedicato così al consumo e all'effimero. Lo studio inglese rivela comunque una tendenza piuttosto diffusa nelle società occidentali avanzate, anche in quella italiana dove tutto ruota intorno al lavoro. In particolare ciò che ha cambiato i tempi della famiglia è il lavoro femminile. Viene da dire che ciò che oggi può fare la differenza in tema di qualità della vita è proprio la possibilità di gestire il proprio tempo senza vincoli. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura del GR Extra Large, un rapido riepilogo delle principali notizie di giornata. Per Berlusconi applausi ma anche fischi all'assemblea di Confesercenti, contestato quando parla di giustizia e lui reagisce: siete in 4-5, percentualmente irrilevanti. Ma il premier in un altro luogo, in un'altra occasione, parla anche del caso Noemi. Ho giurato di non aver avuto rapporti piccanti, ha detto alle telecamere a Palazzo Chigi. Franceschini ancora replica: la battaglia sui valori è giusta e continueremo a farla. Intanto la stessa Confesercenti lancia l'allarme. Nel 2008 sono state chiuse 15.000 imprese strozzate dai debiti o dall'usura. Ci vogliono meno tasse e un bonus fiscale per le aziende che non licenziano. Presidente della Repubblica Napolitano ha fatto un appello: la crisi non cancelli l'accoglienza, i migranti sono vittime di reti criminali. Corsa 2 per acquisire Opel, il governo tedesco ha dato 24 ore di tempo a Fiat e Magna per presentare le nuove offerte. Non è un processo politico, così la giunta militare della Birmania sul procedimento contro la leader dell'opposizione, San Suu Kyi. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Fabio Cantadori. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Se volete riascoltare la puntata o altri contributi sonori, il sito è www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, GR Extra Large torna invece domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.